Hola, profe. Anahí parla con me solo in spagnolo. I miei alunni madrelingua solitamente hanno genitori latinoamericani, alcuni di loro sono nati in Italia, altri no, ma è come se lo fossero, altri ancora sono qui da poco. Quasi tutti usano l'italiano per comunicare con i compagni e con gli insegnanti, tesi nello sforzo di impararlo senza esitazioni, ansiosi di essere pienamente parte della comunità scolastica, di confondersi, di potersi far valere nelle conversazioni, nei litigi, nelle amicizie, negli amori, di ridurre quanto più possibile lo scarto tra quello che sentono e le parole che sanno per dirlo, per acquisire i termini che funzionano immediatamente da collante. I primi che imparano, scialla, t'accolli, bella. A casa parlano in spagnolo, a scuola rigorosamente in italiano. Mañana te traigo un poquito de doña Pepa y de sublime que compré en Perú. Gracias, amorcito. Otra vez, profe, no se dice amorcito así. A tu novio se lo puede decir, no a mí. Pero yo les digo amores a mis amigas también, a las personas que quiero ahí. No seas tan rígida. Bueno, profe, como quieras, tú eres la que manda aquí, pero ya sabes que te equivocas. Anahí fa meno fatica di altri a giocare con le lingue, è nata in Italia ed è sicura del suo italiano e parla anche francese, arabo, perché suo padre è algerino. Ma che ci fate qua? Che state facendo davanti alla porta? Iana mi guarda con gli occhi sorridenti e non risponde. Iana non parla, o almeno non parla ovunque e con chiunque, parla con chi vuole lei. Mutismo selettivo, così lo chiama il DSM-5, e così scriviamo noi sui verbali dei consigli di classe, ormai esperti in diagnosi psichiatriche estemporanee. Alle scuole elementari Iana, appena arrivata dalla Romania, veniva presa in giro per il suo italiano incerto e da un giorno all'altro ha smesso di provarci. Non ha smesso di venire a scuola, anzi ci viene con piacere, studia, sorride moltissimo, gioca, è campionessa di palla avvelenata. Ha solo smesso di parlare. Non parla con noi né con i compagni di classe, sussurra all'orecchio di due amiche quando nessuno la vede, poi torna a casa e parla rumeno. Insomma, dovete bussare? Siamo divise, profe, ma in terza B c'è quello di tecnica, ci sgrida. Dove vas tu? Podemos ir contigo? No, Anahí, no, non te va a comere il profe, vamos. Siamo divise? È un'espressione che all'inizio mi divertiva e mi turbava allo stesso tempo. Sono diviso, prof. E subito tracciavo con la mente una linea immaginaria che tagliava il corpo in due parti, dalla testa ai piedi, la destra di qua, la sinistra di là. Diviso. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Ragazzi, manca italiano. Adesso piano piano prendete le sedie. Esplosione, urla di giubilo, salti, abbracci. Durante quell'ora i ragazzi fanno da pubblico a lezioni pensate per altri, a volte partecipano, a volte leggono o fanno i compiti per conto loro, a volte con la testa sul banco si annoiano a morte. Eppure essere divisi è la cosa migliore che gli possa capitare nell'arco di una giornata di scuola, molto meglio che il supplente. Divisi cambiano spazio, si allontanano dalle quattro mura che li contengono per 8 ore al giorno, dal solito banco con le solite scritte, i soliti graffi, dai soliti compagni. Si spostano, si muovono, anche solo per ritrovarsi tra quattro pareti di colore diverso, per leggere altre scritte, per sentire la voce di un prof che non conoscono. Da divisi poi può succedere di tutto. Elena di terza A e Giovanni di seconda F si sono innamorati perché lui è stato assegnato alla classe di lei. Quest'anno Giovanni è una professoressa di italiano che viene ogni mattina con il treno da Caserta. Ogni sciopero dei trasporti è un batticuore. Prof, te lo ruego, puedo ir contigo, la verdad, me aburro sin hacer nada, gli sentata sin hablar. Dove vai tu? Ho un'ora di buca, Ney, sto andando in biblioteca a studiare, ho il concorso, lo sapete. Potete venire con me se volete, se avete compiti da fare. Si guardano un po' scettiche. Iana sussurra qualcosa all'orecchio di Anahí e subito dopo mi comunica la decisione. Ok, vamos. A scuola bisogna sempre scrivere sul registro tutto ciò che di anomalo succede. Anomalo rispetto al regolamento scolastico, regolamento che se fosse seguito alla lettera farebbe smettere di funzionare la scuola. Nella scuola del regolamento, al cambio dell'ora, si rimane bloccate sull'uscio ad aspettare il collega che aspetta sull'uscio il tuo arrivo, immobili. Nella scuola del regolamento si chiede alla collaboratrice di sorvegliare la classe mentre ci si sposta. Sorvegliare, sì, come i secondini con i detenuti. Ma Di collaboratrice ce n'è una per piano e nella scuola del regolamento è la stessa che accompagna in bagno gli alunni, li porta all'ingresso se qualcuno li viene a prendere, accorre a pulire se qualcuno versa per terra dell'acqua o se sta male e vomita. La collaboratrice ubiqua della scuola del regolamento. Di autonomia a scuola ha parlato per la prima volta Maria Montessori 100 anni fa. Diceva più o meno: ti aiuto a fare da solo. L'odierna sedicente scuola dell'autonomia invece pretende di accompagnare il minore ovunque, lo controlla, non lo riconosce come soggetto capace di badare a se stesso, lo costringe a star seduto per ore con la minaccia del provvedimento disciplinare, la prigione di un corpo nel pieno della pubertà. E per chi non ci sta è pronta la diagnosi di iperattività e la medicalizzazione immediata. Anahi e Iana prendono i libri e insieme saliamo in biblioteca. Insieme. Una prof precaria che insegna lingue a una ragazzina che ne parla 4 e a un'altra che non parla. Le biblioteche sono il mio posto dell'anima. Sono il luogo nel mondo dove in assoluto mi sento più a casa. Più a casa che a casa. E i mesi che ho passato ad Albuquerque in New Mexico a studiare per il dottorato, i mesi della solitudine più profonda che ricordo, l'unico luogo che mi dava pace era la biblioteca dell'università. Bellissima, quelle pareti ricoperte di scaffalature piene di libri, la luce soffusa, decine di tavoli in fila, aperta fino a mezzanotte a chiunque. Una casa per tutti, e anche la mia. Prima che io possa tirar fuori i libri delle avvertenze generali per il concorso a cattedra, Anahi mi porge sorridendo un volume spesso cartonato. È una raccolta di fumetti peruviani che non conoscevo, satirici. Loro, dopo 10 minuti a spulciare tra gli scaffali, scelgono 2 storie brevi per adolescenti, stampate a caratteri giganti e piene di disegni. Nessuno sa che siamo qui e non potremo starci in questo spazio che è chiuso e proibito, ma anche e soprattutto nostro. E allora ci mettiamo comode e lo facciamo vivere. Ognuna dentro la propria storia, e tutte e 3 insieme oltrepassiamo le pareti della scuola, il cancello esterno, il raccordo anulare, l'Italia, le frontiere d'Europa, attraversiamo il Mediterraneo, le differenze tra generazioni, sorvoliamo le Ande e la separazione tra chi insegna e chi impara, ci mettiamo a cavalcioni tra tutte le lingue che conosciamo e inventiamo parole metà arabe, metà italiane, francesi, rumene, spagnole, giochiamo a stare in equilibrio, un passo davanti all'altro, con cautela, sul confine doloroso tra il silenzio e la parola. Alzo gli occhi per guardarle e mi chiedo se va bene o no quello che stiamo facendo. Forse avrei dovuto chiedere il permesso, correndo però il rischio di un diniego quasi sicuro. Mentre legge, Iana scoppia a ridere. E la sua risata è la risposta che cercavo.